Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, da un lato resta ancora la polemica che tutto ha fatto tranne che placarsi sulla proposta di Renzi contenuta nel suo libro di per i prossimi 5 anni mantenere il deficit sotto il 3%, ma appena sotto al 2,9%, e utilizzare questi 30 miliardi. Quindi rinunciare al fiscal, abbandonare il fiscal compact, che vuol dire poi portare nelle prospettive il deficit a zero e avere un margine per ridurre tasse e aiutare, questa è un'intenzione in quello che ha dichiarato Renzi nel suo libro, le famiglie e le persone meno abbienti. Già ieri abbiamo raccontato di alcuni distinguo arrivati, intanto molto forti e molto netti da Bruxelles, e anche del botta e risposta tra Dijsselbloem e Renzi. Renzi ha ricordato la frase del presidente dell'Eurogruppo quando disse che spagnoli, italiani e da questo punto di vista anche greci bisogna stare attenti a come si usano i soldi, non si possono chiedere soldi se si è speso tutto quanto in alcol e donne, frase che fu molto ritenuta molto offensiva. Ieri Renzi l'ha ricordata e ha ricordato anche che secondo lui Dijsselbloem ha una prevenzione anti-italiana, e ha usato una frase poi: noi non spendiamo, non paghiamo le nostre donne a differenza di quello che fa qualcun altro. Qui però siamo veramente alla botta e risposta. Diverso invece oggi è stata la reazione del ministro dell'economia Padoan, che ha perso la pazienza. Lo dico perché, per chi conosce Padoan, è una delle cose più o meno immaginabili da parte del ministro, proprio su una domanda riguardante la proposta di Renzi. C'era il vertice Ecofin e lui era in conferenza stampa appunto finale dopo il vertice Ecofin. Di questo parleremo. Parleremo però, c'è anche un dato oggi sulla produzione industriale, parleremo anche di noi, o meglio del mondo dei media, perché da un lato segnalo che negli Stati Uniti c'è stata una richiesta forte da parte dell'Associazione dei Quotidiani statunitensi di una protezione contro Google e Facebook, accusati di esercitare di fatto un vero e proprio duopolio nella raccolta pubblicitaria. Questo fa il paio con la relazione annuale di oggi della GCOM, dell'agenzia dell'Authority sulle telecomunicazioni, che è un rapporto chiaroscuro, più in chiaro per le telecomunicazioni che dopo 10 anni crescono, e c'è stato il sorpasso dell'utilizzo dei dati rispetto all'utilizzo della voce, quindi al telefono utilizzato per la voce rispetto ai dati, ma c'è stato un aumento dei ricavi. In realtà i ricavi hanno fatto meno 7,6% nel mondo delle telecomunicazioni quanto a chiamate, ma più 5,6% quanto a traffico web. Per quello che riguarda la televisione, nel mondo della televisione c'è dei segnali, dice la GCOM, segnali di ripresa. Bene la radio per quello che appunto riguarda direttamente noi, invece difficoltà ancora per quello che riguarda l'editoria, la carta stampata. La crisi viene definita strutturale, la stampa è il settore che evidenzia segnali di maggiore sofferenza, meno 6,6% i ricavi complessivi nel 2016, con meno 7,7% i ricavi pubblicitari. Ancora, e poi anche un commento sull'attività dei giornalisti, che sta scivolando verso il precariato con forti barriere all'ingresso per i giovani e un cosiddetto gender gap, quindi anche una differenza tra quello che è la situazione per i giornalisti uomini, per i giornalisti donne, ma soprattutto, ripeto, una noi vediamo anche un gap generazionale più che di genere, e cioè chi è entrato nella professione, diciamo, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, ha avuto un certo trattamento, e adesso invece il rischio di precarizzazione anche nel mondo giornalistico è altissimo. Di questo parleremo, dicevo, citeremo anche il rapporto per quello che riguarda di Boston Consulting sulla distribuzione del reddito in questo paese, e alcune dichiarazioni cessione di NPL di sofferenze bancarie. Poco fa è uscita la notizia che Cassa dei Risparmi di Genova venderà 1.200.000.000 di NPL di crediti in sofferenza entro il 2017, per cui su questo, diciamo, c'è un'accelerazione in quella che è la cessione delle sofferenze bancarie. Ancora per quello che riguarda la borsa, invariata Milano in questo momento, meno 0,30 Parigi, invariata anche Francoforte, Londra meno 0,30% anch'esso, Dow Jones invariato, giornata piatta sui listini. Da noi si distingue Exor più 2,40 e Fiat Chrysler più 2,20, Mediobanca più 1,70, Banco BPM pure 1% di rialzo, UbiBanca e anche Mediaset e Hughes Net-a-Porter. Fronte opposto, Buzzi Unicem perde l'1,80, Brembo l'1,50, Banca Generali l'1,1, A2A l'1% come Fineco Bank. Euro su dollaro a quota 1,14. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in diretta video sia sul sito di Radio 24 che su Facebook. Mi chiede subito un ascoltatore: ma il pareggio di bilancio non è in Costituzione? Sì, certo, noi il Fiscal Compact l'abbiamo messo in Costituzione, e immagino che Renzi nel proporre, diciamo, la rinuncia, il superamento del Fiscal Compact, immagini anche un voto parlamentare che vada ad abolire questo in Costituzione, perché sennò non si capisce come si potrebbe arrivare a questo. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo subito con le notizie in breve. E a chi mi scrive dico sì, parleremo anche delle sofferenze bancarie, nel senso che l'Ecofin di oggi, al di là del côté relativo alla proposta di Renzi, ha dato anche via libera alla strategia per affrontare il problema dei crediti deteriorati, e quindi il governo tra l'altro pone la fiducia alla Camera sul DL Banche Venete. Tra l'altro c'è stata anche una protesta alla Camera dei 5 Stelle che hanno agitato in aula i salvadanai sulle banche venete. Per quello che riguarda invece il resto della giornata, partiamo come sempre dall'estero. La cancelliera Angela Merkel oggi, che ricordo è in piena a questo punto campagna elettorale, dice che la politica monetaria della Banca Centrale Europea non è ancora dove la Germania vorrebbe che fosse. Ma Berlino ha ricordato l'indipendenza della BCE, ne prenderemo atto. La buona notizia, ha detto la Merkel, è che tutti gli stati membri della zona euro stanno crescendo di nuovo, milioni di nuovi posti di lavoro sono stati creati, rafforzando la nostra convinzione di essere sulla strada giusta. E quando mai, aggiungo io, avete avuto un dubbio di essere sulla strada giusta? Chi vi parla pensa in maniera, non dico diametralmente, ma sostanzialmente opposta. Comunque, oggi arriva l'appoggio del ministro greco per l'immigrazione Ioannis Mouzalas alle richieste dell'Italia all'Europa. Sono giuste, il problema è europeo ed internazionale, non può avere una soluzione nazionale. sulla legge di bilancio. Allora, Matteo Renzi intanto oggi ha detto, insomma, la mia proposta è giusta, aiutare i migranti a casa loro è condivisa dal 99% delle persone. Renzi ha anche ricordato che 3 anni fa, quando abbiamo fatto la battaglia per la flessibilità, l'Europa all'inizio diceva non esiste, invece nel giro dei 6 mesi la flessibilità ce la siamo presa, 20 miliardi, vinceremo anche questa partita. La mia frase di abbassare le tasse è una frase di buon senso e condivisa dal 99% degli italiani, anche la frase di aiutare i migranti a casa loro. Venendo alle banche, al vertice Ecofin, ripeto, via libera alla strategia per affrontare il problema dei crediti deteriorati, però sono arrivati attacchi bipartisan, cioè sia dalla CDU che da altri partiti tedeschi al salvataggio italiano. Schneider, vice capo dell'Unione, ha detto, che è socio-democratico, Carsten Schneider, ha detto c'è un il salvataggio delle banche venete crea un precedente pericoloso, l'eccezione fatta per le banche italiane costituisce un precedente pericoloso e gli stati dovrebbero tenersi fuori in caso di problemi di liquidità, è l'opinione del suo omologo della CDU. Comunque, al di là della fiducia posta, vale la pena notare che oggi la Banca d'Italia ha diffuso il dato sulle sofferenze lorde. Le nette sono in calo a 76 miliardi contro i 77 di aprile, ma quelle lorde hanno un leggerissimo calo. Questo però prima delle operazioni sulle banche venete e sul Monte dei Paschi, che dovrebbero far scendere lo stock di sofferenze bancarie di circa 50 miliardi. Ancora due notizie. La prima riguarda la produzione industriale, che ha oggi registrato un buon dato dopo il calo di aprile, più 2,8% a maggio rispetto a un anno prima, e quindi complessivamente nei primi 5 mesi dell'anno la produzione industriale è aumentata dell'1,7% rispetto ai primi 5 mesi del 2016, una crescita che, va detto, supera le attese degli analisti. Tra l'altro, nel mondo dell'industria meccanica, il dato oggi durante l'assemblea annuale è arrivato dalle federazioni dell'Associazione Nazionale della Meccanica, ANIMA. L'industria della meccanica italiana si appresta a chiudere il 2017 con un incremento della produzione del 3,7%. Queste sono le proiezioni sull'anno in corso, a 46,6 miliardi. Con un aumento dell'export del 2,5%, degli investimenti del 13% rispetto al 2016. E il rapporto poi Boston Consulting. Perché? Perché Boston Consulting oggi va a fotografare la ricchezza delle famiglie italiane e ricorda quanto già abbiamo detto in altre occasioni, e cioè che questo è un problema non solo italiano, è un problema anche negli Stati Uniti, è un problema di tutto il mondo occidentale. La ripresa che è in atto, oltre che essere in Italia debole e non sufficiente, non è condivisa nel più alto livello possibile, ossia noi guardiamo sempre i dati aggregati, però poi quello che è accaduto negli Stati Uniti è che la ripresa vera e propria ha riguardato un nucleo relativamente basso di persone, che poi fa media, ossia sta aumentando la divaricazione sociale e il cosiddetto indice di Gini. Perché lo dico? Perché l'Italia, secondo Boston Consulting, ha 307.000 famiglie milionarie, cioè l'1,2% del totale delle famiglie posseggono il 21% della ricchezza finanziaria italiana. Qui stiamo andando proprio al patrimonio e azioni, obbligazioni, depositi, strumenti di liquidità. Parliamo di ricchezza finanziaria, non di patrimoni immobiliari e quant'altro. Nel 2021 saranno cresciute a 433.000 contro appunto le 307.000, l'1,6% del totale, con uno stock pari al 24%. E tra l'altro Boston Consulting rileva come anche a livello mondiale il numero di famiglie milionarie sia cresciuto in un anno del 7%, arrivando a quota 18 milioni, ossia a livello mondiale l'1% delle famiglie detiene il 45% della ricchezza. Tra l'altro, tra le famiglie milionarie il 12% detiene patrimoni superiori a $1 milioni. Nel 2021 la percentuale salirà al 16%. Questo sta a indicare che la ricchezza prodotta non andrà a ridistribuirsi in maniera corretta, ma andrà a uno potrebbe dire piovere sul bagnato. In questo momento andrà ad incrementare la ricchezza di chi già ha uno stock considerevole di ricchezza finanziaria. Certo che il fatto che in Italia l'1,2% abbia il 20% della ricchezza totale è un dato tra virgolette migliore di quello mondiale, dove l'1% ha il 45% della ricchezza totale. Però anche noi, che abbiamo sempre avuto un indice di Gini basso, cioè un indice della divaricazione della ricchezza molto basso, lo stiamo ampliando, tant'è che la ricchezza finanziaria, la maggior crescita riguarderà le famiglie, questo livello mondiale, che hanno già una ricchezza tra 1 e 20 milioni di dollari, e poi i super ricchi, chi avrà oltre 100 milioni di dollari. E adesso andiamo alla parte del poi ne parleremo nella seconda ora del programma, della proposta di Renzi, delle reazioni e quant'altro. Perché Padoan oggi al vertice Ecofin, dopo aver parlato di banche, di sofferenze bancarie, ha detto: faremo una legge di bilancio coerente con quanto fatto, perché va nella direzione giusta di più crescita e meno debito. A quel punto gli hanno chiesto, giustamente, in conferenza stampa, l'hanno incalzato su che ne pensasse, come commentasse la proposta di Renzi sui conti pubblici, in particolare quella di portare il deficit al 2,9% per 5 anni. Ecco, io vorrei farvi ascoltare, perché poi ne riparleremo, solo questo passaggio audio, perché da una persona compassata, alcuni dicono algida, quasi diciamo priva di sentimenti, come appare, chiaramente non è così, come l'ex capo economista dell'OCSE e appunto attuale ministro dell'economia Piercarlo Padoan, tutto ci si poteva immaginare tranne che una risposta di questo tenore alle domande insistenti dei giornalisti su che pensasse della proposta di Renzi. Madonna, dai, non possiamo fare un dibattito sul 2,9, dai. Ma cosa vuol dire cosa penso davvero, scusi? Guardi, da capo economista dell'OCSE, ex capo dell'economista dell'OCSE, chissà, forse futuro economista dell'OCSE, le posso dire che esercizi di questo tipo si fanno, si analizzano in vari modi, non tanto da ex capo economista dell'OCSE, ma da attuale ministro dell'economia, dico che sono pienamente d'accordo con l'idea che il debito si abbatte con la crescita e che di conseguenza lo spazio fiscale disponibile a un paese deve essere utilizzato avendo in mente questo obiettivo, cioè quali sono le misure che sostengono la crescita meglio di altre. Madonna, allora, Madonna Santa, si è capito, l'abbiamo fatto, e ci aggiungeva anche qualcos'altro, però diciamo parolacce in questa trasmissione no, però la dice lunga sul fatto che perfino una persona compassata come Padoan risponda Madonna Santa no, su questo tema, vuole uscirne, non vuole parlarne, e però il tema l'ha posto il suo ex presidente del Consiglio. Allora, noi invece andiamo al primo dei nostri temi, il rapporto di oggi, la relazione annuale della GCOM, nel giorno in cui appunto i quotidiani americani, l'associazione dei quotidiani americani ha chiesto protezione contro la concorrenza sleale di Google e Facebook per fermare il duopolio che i due esercitano nella raccolta pubblicitaria anche negli Stati Uniti. Andiamo con ordine, il presidente della GCOM, Angelo Cardani, nella relazione annuale ha detto: dopo 10 anni di ininterrotta contrazione, le telecomunicazioni, qui stiamo parlando di telecomunicazioni, sono tornate a crescere. I ricavi nei mercati di nostra competenza rappresentano il 3,2% del prodotto interno lordo. Negli ultimi anni mostrano un andamento variabile, nell'ultimo anno un'inversione di tendenza rispetto al quadriennio precedente. I ricavi complessivi riprendono a crescere dopo anni in diminuzione. La quota prevalente di ricavi è quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni, seguite dai media e dai ricavi dei servizi postali. La spesa media annua nei servizi di comunicazione rappresenta la seconda spesa delle famiglie dopo la casa. La quota prevalente è destinata alla linea o scheda telefonica e all'accesso a internet su reti fisse e in mobilità, seguita da servizi e prodotti audiovisivi in diverse modalità, dall'acquisto di quotidiani e periodici e infine dai servizi postali. Sì, vedo che molti al 349-238-6666 mi fanno notare che Madonna Santa, cioè, scusatemi, che oltre a Madonna Santa di Padoan è anche strano che uno dica, se lo chiede al capo economista dell'OCSE, no amore, io lo chiedo al ministro dell'economia italiano, che era ministro anche del governo Renzi, e la dice lunga sul distinguo presi. Quindi torna, mi riferisco al mondo della telecomunicazione, in segno più, dopo il metro e la pubblicità invece parleremo di televisioni, radio, media e anche della denuncia che arriva dagli Stati Uniti contro Facebook e Google. Focus Economia. :17:36 abbiamo ascoltato prima del meteo appunto l'analisi del presidente dell'Agicom sull'andamento del settore telecomunicazioni. Prima volta crescono i ricavi dopo 10 anni, per la prima volta le risorse derivanti dai servizi dati sorpassano i ricavi del servizio dati sorpassano i ricavi della voce. Infatti il servizio dati è cresciuto del 5,6%, i servizi voce sono calati del 7,6%. Cioè, tradotto vuol dire che sempre più si usano i telefonini per scrivere, navigare, scaricare e sempre meno per parlare. Il mondo della televisione torna nel segno più, nei ricavi il mercato è molto concentrato, a Rai e Mediaset ci vanno l'80% delle risorse free, a Sky il 77% di quello che arriva alla pay TV, a Mediaset il 21%. E poi la Agicom ha chiesto più chiarezza sull'attività da canone, cioè il nuovo contratto di servizio dovrà definire con chiarezza la base su cui la RAI dovrà operare, sia nei servizi prodotti verso i consumatori che pagano il canone, sia rispetto alle attività commerciali ed editoriali svolte nel mercato libero, un ruolo più difficile in un sistema misto. Senza una scelta legislativa chiara sulla separazione per canale, fascia oraria, contenuto delle attività coperte dal canone, pari al 74% delle risorse complessive. Andrea Biondi, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E partiamo da qui, una frase un po' criptica. Che cosa chiede la Agicom? Perché dice, il canone alla RAI copre il 74%, se ho ben capito, delle risorse che ha a disposizione. Cosa chiede? Di distinguere, non so, con un bollino, qualcuno arrivò anche a proporre questo programma è coperto con le risorse da canone, quest'altro programma invece vive di raccolte pubblicitarie e basta? Ma allora, diciamo che adesso innanzitutto siamo in un momento particolare nel quale c'è da fare il contratto di servizio, cioè la RAI ha ottenuto per convenzione diciamo l'appalto decennale del servizio pubblico. Questo appalto va declinato con un contratto di servizio in cui si deve dire che cosa la RAI deve fare, che cos'è il servizio pubblico, quali sono gli obblighi ai quali si deve attenere, e questo contratto di servizio dura 5 anni. Siamo in un momento in cui si è alle battute finali, il sottosegretario Giacomelli ha detto che avrebbe voluto l'approvazione, il sottosegretario alle comunicazioni del MIS avrebbe voluto l'approvazione del contratto di servizio prima della pausa estiva, quindi significa l'ultimo Consiglio dei Ministri dell'11 agosto, probabilmente si andrà un po' oltre. Però, come dire, l'occasione è un'occasione da non perdere, visto che durerà 5 anni e non più come i 3 anni dei contratti di servizio precedenti, per mettere proprio in chiaro la RAI che cosa deve fare, che cosa non deve fare, che cos'è servizio pubblico. Tante polemiche che sentiamo nel corso dei certo, mesi. Per esempio il contratto a Fazio, adesso è inutile girarci attorno. Allora, io devo dire una cosa, che sul Sole 24 Ore c'è stata un'analisi bellissima, sul fatto, su come non si possa dire che il singolo programma produce, questo vale chiaramente anche per noi, che il singolo programma produce tot di raccolta pubblicitaria, perché non è così facile il costo, lo dico non per criticare Fazio, ma lo dico in generale, se un programma costa 100 euro e ne raccoglie 400 di euro, tu, diciamo, il cortocircuito, la vulgata è, ma vedi, nel caso di Fazio, ma anche di altri, con 100 euro ne porti a casa 400. Giustamente sul Sole 24 Ore avete fatto notare che non è così il calcolo, perché il programma va in onda grazie a una struttura, grazie a un emittente, grazie a un gruppo di persone che ci lavorano, a una struttura che esiste al di là del programma stesso, non solo la struttura che serve a quel programma, di un marchio stesso. Per cui fare il calcolo così pulito pulito, costi 100 e porti 400, è anche una bestemmia, un'inesattezza dal punto di vista di chi vuole occuparsi dei media, perché tu non conduci da solo. La RAI ha un marchio che è un suo marchio, ha una struttura che è una sua struttura, vale anche per Radio 24 nel nostro piccolo, per tutti. Cioè non si può dire semplicemente il conduttore X porta tutti questi soldi. Andrea. Sì, l'analisi che abbiamo fatto, appunto, che ha fatto il professor Siliato sul Sole 24 Ore di una settimana fa, appunto, riguarda questo, cioè, come dire, che ci sono dei costi condivisi, certo, dei costi di struttura che non possono permettere di dire così facilmente il programma si ripaga con la pubblicità, anche perché bisogna vedere gli introiti che uno immagina, su quale audience li immagina. Ma al di là del contratto di Fazio, che poi rimarrà sicuramente un argomento di discussione nelle prossime settimane, visto che il direttore generale Orfeo è chiamato in vigilanza, dovrà andare o domani o dopodomani a seconda, diciamo, del voto di fiducia, di ciò che sarà necessario per il voto di fiducia, sarà ascoltato su questo. Ma, come dire, ritornando al discorso più generale del contratto di servizio, appunto, quello che la RAI deve fare come servizio pubblico, cioè determinati programmi, la copertura di determinate esigenze territoriali, geografiche, di appartenenza geografica, insomma, queste sono tutte cose alle quali il contratto di servizio servirà per mettere chiarezza, anche perché nelle passate gestioni la contabilità separata di ciò che viene dovrebbe essere ripagato col canone, di ciò che non dovrebbe essere ripagato col canone, ma come non ha funzionato granché, se è vero che c'è uno sbilancio più o meno in 10 anni di 2,5 miliardi, cioè sono 2,5 miliardi che lo Stato in teoria dovrebbe dare alla RAI, perché la RAI ha usufruito di servizi, di risorse non da canone, per pagare servizi da canone. Insomma, tutto un discorso complicato, per dire che comunque la chiarezza sul punto del contratto di servizio sarà necessaria per far chiarezza su quello che dovrà fare la RAI per i prossimi anni, e questo è stato sicuramente uno dei punti sui quali la relazione di Cardani è stata più incisiva dal punto di vista delle tematiche riguardanti i media. Veniamo a altri punti. Primo, per quello che riguarda l'utilizzo di internet, della rete, questa è colpa solo nostra, oltre che di una copertura che non fantastica per essere buoni in alcune parti del territorio, e anche quando si viaggia in treno, e anche quando si viaggia in autostrada, e anche... il 60%, solo il 60% degli italiani usa internet, penultimi in Europa, non sfondano gli acquisti e le banche online, invece sopra la media giochi e musica. Sì, il problema dell'utilizzo di internet, dell'utilizzo dei servizi... Aspetta un attimo, perché volevo far sentire Andrea il Cardani su questo. La crescita dell'uso di internet e la diversificazione delle modalità di fruizione della piattaforma internet sono un fenomeno comune al resto del mondo. Sebbene l'Italia sia ancora al penultimo posto della classifica dell'Unione Europea, la percentuale della popolazione che utilizza Internet è cresciuta di 3 punti nel 2016, arrivando al 60%. La piattaforma è utilizzata meno della media dell'Unione Europea per acquisti, servizi bancari e VOD, nella media per i social network, mentre unico indice sopra la media e il consumo di contenuti digitali, musica, video, giochi online. Veniamo invece a oltre che media, oltre che internet, rete e telecomunicazioni, al resto, e cioè radio e televisioni. Eccoci, sì. La parte media, come dicevamo, è cresciuta in questo anno e la relazione dell'Agicom ne ha dato contezza. La TV l'ha fatta da padrona in questa situazione, è una TV in cui introiti sono cresciuti sopra gli 8 miliardi nell'ultimo anno e in cui, come abbiamo detto, Sky ha una posizione di privilegio per quanto riguarda la pay TV, mentre Mediaset è la prima, diciamo, TV commerciale. Mm-hmm. Insomma, tutto questo però in un anno nero per quotidiani e periodici, purtroppo, che hanno perso il 6,6% dei ricavi, insomma. Il mercato della TV rimane un mercato che comunque è ancora concentrato ed è un mercato che adesso dovrà fare i conti con tutto l'avvio del video on demand che si sta facendo sempre più strada e che mette in crisi tanti paradigmi di consumo per quanto riguarda appunto il discorso della TV lineare. Certo. Allora, la radio ha avuto un buon anno, il 2016 è stato un buon anno per la radio. Uh-huh. E anche per la nostra radio, questo lo dico non per inciso io, ma e anche le prospettive sul 2017 quanto ai ricavi pubblicitari non sono male. Una risposta devo dare a un ascoltatore che dice: spiegatemi perché devo comprare online. Uno compra come vuole. Faccio notare che la Agicom ha detto che siamo sotto la media europea, ma se uno va a vedere i tassi di acquisto online, soprattutto nelle fasce, diciamo, medio-alte, non solo economicamente, ma come livello di istruzione, quindi anche connessione alla rete, stanno crescendo in maniera fortissima. Poi su alcuni servizi ci vorrà sempre la presenza fisica e l'incontro fisico, per alcuni acquisti, scusatemi, l'incontro fisico. L'esperienza fisica, ci sono anche molti casi di persone che vanno al negozio, vedono e poi comprano online perché ci sono dei prezzi più bassi, e oltre che vantaggi di carattere logistico e quant'altro. E poi un giorno faremo una bella puntata sul mondo del commercio, le sfide con l'online. È chiaro che devi offrire un altro valore aggiunto, non può essere né la facilità d'accesso perché l'online ti offre tutto, né delle volte il prezzo, ci deve essere anche... probabilmente un servizio ulteriore che l'online non ti riesce a dare, ma attenzione perché l'Italia è più bassa della media, ma non è che non stia crescendo in Italia. Ultimo aspetto che poi ci porta a parlarne anche con Mario Platero in collegamento da New York, Google e Facebook. Anche la Agicom dice in sostanza che loro si spartiscono la torta più rilevante della pubblicità in rete, della pubblicità online, che è quella che sta crescendo. Eh sì, questa è una cosa, diciamo, che è stata messa in rilievo anche dalla presentazione dell'Agicom. È chiaro, l'esperienza per chi vive il mondo dei media è l'esperienza stessa a dire che effettivamente Google e Facebook prendono una gran parte della torta pubblicitaria. I dati Nielsen che escono ogni mese escono, diciamo, con un perimetro tradizionale e con un perimetro comprensivo di Google e Facebook, che vengono solo stimati perché Google e Facebook non forniscono i loro dati a Nielsen. Ecco, si vede benissimo come il perimetro tradizionale è sempre più o meno da febbraio in poi, è sempre stato col segno meno, e invece il perimetro con Google e Facebook è il segno più. perché effettivamente loro, che valgono il 50% della pubblicità online, hanno un peso preponderante e stanno guadagnando delle quote di mercato con ogni probabilità a scapito soprattutto della carta stampata. La TV ha mantenuto anche lo scorso anno e anche quest'anno sembra mantenere un pochino le posizioni, però la pubblicità online di Google e Facebook maggiormente profilata, che offre agli investitori quelli che vengono considerati dei vantaggi dei plus, sta facendo breccia, anche se da un certo punto di vista le stesse centrali media negli ultimi mesi, hanno iniziato a porre il punto della qualità della pubblicità, della qualità della pubblicità sul mezzo, che in qualche modo viene rispecchiata anche dal mezzo che ospita la pubblicità. Questo forse è un punto sul quale nei prossimi mesi potremmo vedere qualche tendenza, sempre però tenendo presente che Google e Facebook stanno effettivamente facendo la voce grossa sul mercato pubblicitario. Lo dico perché negli Stati Uniti l'associazione che rappresenta più di 2000 quotidiani, tra cui Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, ha chiesto al Congresso americano di fermare il duopolio nella pubblicità contro appunto Google e Facebook. Ne parliamo dopo il traffico. Grazie intanto ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. :17:52. Allora, Mario Platero in collegamento con noi da New York, buonasera. Buonasera Sebastiano, eccoci. Sono tutti arrabbiati, appunto l'associazione che raggruppa 2000 testate, 2000 quotidiani negli Stati Uniti, contro Google e Facebook. Ma cosa può fare il Congresso e cosa chiedono loro? Allora, intanto la premessa è che la sfida è una sfida epocale, perché alla base di questo confronto c'è anche la rivendicazione di poter continuare a fare del giornalismo serio, di poter avere i mezzi per poter scrivere delle notizie credibili e per quindi poter in qualche modo contrastare le fake news. Questo è il contesto di fondo, diciamo il contesto morale, di protezione, se vuoi, addirittura della nostra democrazia, del nostro modo di fare democrazia. In termini pratici cosa succede? Migliaia di giornali americani non hanno più quegli introiti pubblicitari che avevano un tempo, non solo, ma hanno una picchiata delle vendite, soprattutto i giornali più piccoli, i giornali regionali, i giornali locali, New York Times, Wall Street Journal, continuano ad andare tutto sommato piuttosto bene. E allora cosa succede? Che l'associazione dei giornali ha chiesto al Congresso di autorizzarli a poter negoziare in modo, diciamo così, collettivo con Google e Facebook, quindi i 2000 giornali da una parte rappresentati dalla loro associazione con l'appoggio di tutti, incluso New York Times, Washington Post e Wall Street Journal, come ricordavi tu, dall'altra Google e Facebook, per discutere di che cosa? Beh, di una spartizione della torta. Ma perché? Perché cosa succede? Che Google e Facebook ridistribuiscono in modo gratuito gran parte delle notizie di questi giornali. Certo. E su quello fanno pubblicità che va soltanto a loro e non ai giornali. E dunque, cosa succede? Che questo flusso... Sì, diciamo che gliel'abbiamo anche lasciato fare in questi anni. Hai assolutamente ragione. Nel senso, allora, vale anche per l'Italia. Io vado su Google, mi piglio tu o no Google, prendo un aggregatore di notizie, trovo notizie che vengono dal quotidiano, dal Sole, dal Corriere, dalla Stampa, da Repubblica, dalle agenzie stesse, e gliel'abbiamo lasciato fare perché eravamo convinti che in questo modo, sbagliando, ci fosse anche un po' di pubblicità. In realtà loro in questo modo ti cannibalizzano e raccolgono tutta la pubblicità. Mario, hai 30 secondi per concludere. Ti do tre notizie. Allora, la prima è che non solo noi tutti, quotidiani, giornali, mezzi, dovremmo mettere il paywall e quindi separare la notizia di qualità dalla fake news, ma ci sono importanti inserzionisti pubblicitari che hanno deciso di non mettere più inserzioni pubblicitarie su siti dubbi. Ti faccio un esempio, JP Morgan Chase faceva pubblicità su 400.000 siti diversi attraverso la rete di Google, di Facebook, capito, che facevano pubblicità mirate. A questo punto li ha ridotti da 400.000 a 5.000 e Jamie Dimon ha detto, ma 5.000 continuano a essere un numero enorme. Dunque, separazione tra giornalismo di qualità e fake news, e in questo Google e Facebook dovranno in qualche modo trovare un accordo, perché ne va della credibilità di tutti noi, credo. Grazie Mario, vedo già dei commenti. Attenzione, se poi ricorderò anche quando ha detto da noi la GCOM sull'attività dei giornalisti che scivola verso il precariato, con una grossa preoccupazione sulla qualità e la pluralità dell'informazione. Vuol dire, se i ricavi sono in calo del 24% e l'editoria ha sempre meno soldi, è chiaro che va verso la precarizzazione. Uno mi potrà dire, ma lì dipende dalla qualità del giornalista. Sì, certo, ma anche da qualche lira. Faccio notare che libertà e pluralità di stampa sono previste dalla Costituzione italiana, non è solo legge di mercato. Ma ne parliamo dopo il GR24. Grazie Mario Platero, 349-238. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa, ma soprattutto la conclusione del vertice Ecofin sulle sofferenze bancarie italiane. Allora, dicevamo della borsa che oggi, non solo Milano, per carità, tutte le borse europee sono poco mosse. Milano alla fine perde lo 0,3%, Parigi lo 0,4%, Francoforte invariata, Londra meno 0,50%, Dow Jones invariato. Su Telecom, che si era mossa anche bene, più che il rapporto dell'AGCOM, pesavano le indiscrezioni su una rottura tra Cattaneo numero 1 e Vivendi, socio di maggioranza relativa. Cattaneo ha smentito, le indiscrezioni sono false, resto fino all'ultimo. Invece, tra l'altro, le borse oggi sono molto piatte perché domani Janet Yellen interviene al congresso statunitense e poi c'è l'attesa per l'inizio dei dati trimestrali, per cui sono tutti molto cauti. Bene le banche, adesso ne parliamo dopo il piano dell'Ecofin per i crediti deteriorati. B per banca più 1,80, UBI più 1,40%, ancora Banco BPM più 0,80, Bene Xor più 1,90, come Fiat Chrysler più 1,80%. Le utilities oggi deboli dopo il rialzo di ieri. Tra i titoli che cedono segnalo anche Brembo meno 2%, Unicredit meno 1,80, Fineco meno 1,60, Buzzi Unice meno 1,5, Banca Generali meno 1,30, come Campari, Mediolanum meno 1%, i migliori e peggiori. Credito Valtellinese, a proposito delle cessioni di sofferenze, guadagna 9,94%, bene anche Visibilia Editore più 10%, Ceramiche Ricchetti più 6,70, il fronte opposto Poligrafici Printing meno 6,20, Reno De Medici meno 5, Invest meno 4,20%. E allora, diciamo delle banche bene per quello che è stato deciso a Bruxelles. Ascoltiamo il ministro Padoan dopo il vertice Ecofin. Questo Padoan non è quello sulla risposta alla proposta di Renzi sulla bad bank e il valore dei non performing loans, il valore delle sofferenze bancarie. Abbiamo discusso di un rapporto di gestione degli NPL a livello europeo che, come credo sia noto, contiene linee guida in termini di ruolo della vigilanza e della sorveglianza nel definire piani di gestione degli NPL, sviluppo dei mercati secondari, sviluppo di un blueprint, quindi di un progetto, diciamo, di un meccanismo comune per bad bank a livello nazionale, che secondo noi devono essere utilizzate su base volontaria dalle banche. Il valore di scambio di un NPL dipende dal mercato degli NPL, quindi non è che dipende da una legge che stabilisce qual è il prezzo ex ante. È chiaro che c'è un problema, ma questo è ben noto, che nel momento in cui si maturano, diciamo così, degli NPL nel bilancio di una banca, la banca probabilmente si troverà a dover fronteggiare una perdita, alla quale richiede, per fronteggiare la quale, un aumento di capitale, e per poi cederlo fuori dalla banca, lo può cedere a una bad bank, cioè un'agenzia, diciamo una entity che gestisce queste sofferenze, lo può cedere direttamente sul mercato. Quindi non mi pare che ci siano, come dire, regole che dicono quale debba essere il prezzo di cessione di uscita dal bilancio di una banca. C'è enfasi, e questo mi sembra molto importante, sulla creazione di meccanismi di mercato che permettano di identificare il vero valore di scambio di queste sofferenze, così che queste sofferenze poi escono dal mercato e quindi alleggeriscono i bilanci delle banche. Così appunto il ministro Padoan, mentre oggi appunto arriva la notizia che la Cassa di risparmio di Genova collocherà entro il 2017 1.200.000.000 di non performing loans, di sofferenze bancarie. La Banca d'Italia fa sapere che le sofferenze sono in leggero calo a maggio, 202 miliardi, ma non tiene conto questo dato dei 50 miliardi in meno che arriveranno dalle vendite di Monte dei Paschi e delle banche. Venete, Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Moria, la domanda è molto semplice. Dopo, diciamo, il via libera di Bruxelles, nonostante qualche mal di pancia in Germania, però sull'operazione delle banche venete, non in generale, possiamo dire che, insomma, si va verso la discesa e non ancora la salita sul fronte delle sofferenze bancarie e quindi di quello che sta zavorrando, secondo le banche, spesso hanno ragione, anche la loro capacità di fare prestiti, nuovi prestiti, è quello che ha drenato una marea di miliardi al sistema, perché non dimentichiamoci tutti gli aumenti di capitale che le banche italiane, piccole e anche grandissime, hanno dovuto fare in questi anni, perché svalutando le sofferenze, cioè svalutando i soldi che tu pensavi di poter riavere dalla persona o dalla impresa a cui li hai prestati, ti si abbatte il capitale e quindi devi fare aumenti di capitale. Quindi possiamo dire che è iniziato, che siamo almeno al giro di boa o no? Allora, il giro di boa sì, perché le banche italiane, parliamo di quelle italiane che poi è il paese più grande che ha il maggior problema di crediti in sofferenza, hanno negli anni passati svalutato molto, fatti molti aumenti di capitale. Le banche critiche, quelle tipo Monte Paschi, le banche venete, hanno in qualche modo con aiuti pubblici salvato la situazione, quindi stanno smaltendo anche i loro crediti deteriorati, quindi la situazione sta migliorando, però non sta particolarmente migliorando, o meglio sta migliorando a mio avviso un po' troppo lentamente, la creazione di nuovi crediti in sofferenza. Cioè anche i dati di oggi di Banca d'Italia dimostrano che sta rallentando la crescita di crediti nuovi in sofferenza, quindi diciamo che le banche continuano a imbarcare crediti deteriorati, quindi la situazione è migliorata sicuramente, ma molto poco, cioè molto lentamente. E tra l'altro, se posso fare anche un commento su questa misura dell'Ecofin, che secondo me dimostrano per l'ennesima volta che l'Europa è in grado solo di partorire topolini, cioè hanno fatto una serie di misure nella quale ogni si prende atto del problema, ma di fatto nessuno ci mette i soldi, non si fanno misure concrete veramente per ridurre il problema dei crediti deteriorati. Quindi il problema è noto a tutti, ma alla fine ognuno se la deve sbrigare per sé. La diagnosi è nota, il paziente rischia di morire però. Esattamente, sono fatti abbastanza suoi, questo è un po' il sunto dell'Ecofin. Quindi anche qua, come in tante anche altre questioni, a partire dai migranti, anche questioni non economiche, l'Europa prende atto, ma alla fine il vero problema bisogna risolverlo però in casa. Per chiudere con te su questo, noi sappiamo che il tema delle sofferenze era non solo il loro ammontare, ma anche quanto erano iscritte a bilancio. Cioè se io devo a te 100 euro, abbiamo fatto spesso l'esempio, e tu continui a dire che ti aspetti nel tuo bilancio 100 euro da me, è una cosa. Se poi tu prendi atto realisticamente che io sono o fallito in estrema difficoltà, è bene che vada, te ne darò 40, metti a bilancio 40 euro da Barisoni, non più 100, e vai a svalutare il tuo patrimonio. Se per di più il mercato, visto che io non te li sto ancora ridando questi soldi, pensi di girarli a un fondo più o meno avvoltoio, che vada poi lui a ritirare i soldi da me, e il fondo avvoltoio te li valuta 20, devi svalutare ulteriormente i miei 100 euro. Ecco, sulle svalutazioni in pancia siamo messi a livelli realistici? Allora, siamo messi, dipende da come si guarda il problema. Allora, mediamente, storicamente, negli ultimi anni in Italia dai crediti in sofferenza si recupera circa il 40%, cioè su 100 euro erogati a un debitore che non è più in grado di pagare, mediamente si riesce a recuperare il 40%, quindi 40 euro. Il problema è che questi 40 euro non si recuperano subito, ma si recuperano in vari anni, perché in Italia la giustizia è lenta, perché le procedure sono complesse, perché le banche non li sanno gestire, per mille motivazioni. Quindi attualmente le banche iscrivono i crediti di sofferenza a bilancio intorno al valore del 40%, quindi diciamo che è corretta la valutazione secondo le serie storiche di quanto quei crediti verosimilmente saranno recuperati, però se le banche le vogliono vendere quel prezzo non è più corretto. Cioè se li vuoi recuperare subito non è quello il prezzo che ottieni dal mercato. Non è quello che ottieni dal mercato e soprattutto li vuoi vendere a operatori specializzati, perché chi compra un credito in sofferenza sa che tra 8 anni recupererà 40, quindi dovendo pagare poi la struttura di persone che vanno a recuperarlo, i tribunali, gli avvocati eccetera eccetera, e dovendo avere un rendimento annuo, è ovvio che deve comprare a un prezzo basso, perché recuperando poi 40 tra 8 anni, comprandolo oggi a 20, ha un tasso di recupero sufficiente per poterci guadagnare sopra. Quindi le banche, se non li dovessero vendere, potremmo dire che le hanno svalutate in maniera corretta, anzi tra l'altro in Italia le svalutazioni sono maggiori che negli altri paesi europei. A patto che tu non ne abbia bisogno subito. Esattamente, però se le banche devono venderli come l'Unione Europea ci chiede e come molte banche vogliono fare, allora a quel punto il 40% non va più bene, bisogna svalutare ulteriormente, quindi questo è il vero problema. Grazie Moria Longo, andiamo sul traffico e poi partiamo da quel Padoan. Qualcuno mi ha detto avete fatto sentire troppe volte, ma sentire Padoan che dice oh Madonna Santa, poi aggiunge anche una parolaccia, ha una domanda sulla proposta di Renzi e poi parla diciamo come se fosse io dovessi parlare come capo economista dell'Ocse, è bellissimo perché ti dice molto più di tante analisi quanta sia la distanza siderale tra il ministro dell'economia in questo momento e la proposta dell'ex presidente del Consiglio di non ridurre il deficit, far saltare il fiscal compact, mantenere il deficit al 2,9% per 5 anni, liberando risorse per chi ne ha più bisogno. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Posso fare un dibattito sul 2,9? Dai, ma dai. Cosa vuol dire cosa penso davvero? Scusi. Guardi, da capo economista dell'Ocse, ex capo dell'economista dell'Ocse, chissà fosse futuro economista dell'Ocse, le posso dire che esercizi di questo tipo si fanno, si analizzano in vari modi, non tanto da ex capo economista dell'Ocse, ma da attuale ministro dell'economia, dico che sono pienamente d'accordo con l'idea che il debito si abbatte con la crescita e che di conseguenza lo spazio fiscale disponibile a un paese deve essere utilizzato avendo in mente questo obiettivo, cioè quali sono le misure che sostengono la crescita meglio di altre. Madonna santa, questo era il Madonna Santa con l'aggiunta di qualcos'altro del ministro Padoan. Professor Gustavo Piga, economista dell'Università di Tor Vergata, buonasera. Come sta? Buonasera, ben trovato. Allora, io adesso non voglio infierire, ma insomma la risposta di Padoan, che prima smadonna in senso letterale, poi dice se dovessi rispondere come capo economista, come ex capo economista, come forse futuro capo economista, gli direi che questi esercizi si fanno, però che l'importante è a questo punto dal ministro mettere le risorse da dove la crescita si crea. Poi Padoan ha detto che faranno una legge di bilancio coerente con quanto fatto, più crescita e meno debito. Mi sembra una sconfessione totale di quella che è stata la proposta di Renzi in primis, e più sulla linea di quanto dichiarato dal ministro Calenda. Non è tabù dire per alcuni anni manteniamo il deficit sotto il 3%, ma non lo portiamo a zero, cioè sospendiamo, rinunciamo al fiscal compact a patto che si facciano le riforme, si facciano le altre privatizzazioni e questi soldi vadano sui fattori produttivi di crescita. Ha avuto anche lei la stessa sensazione? Poi mi dica cosa ne pensa della proposta di Renzi invece. Non so se è una sconfessione confessione totale, ovvio a mio avviso che parliamo di due orizzonti temporali diversi che questi due personaggi hanno, giustamente un ministro dell'economia che ha un orizzonte temporale molto a breve, perché poi a breve avremo le elezioni, ci sarà un nuovo governo, e un leader di un partito che si deve, che tra l'altro, diciamolo chiaramente, ha rassicurato tutti, e cosa importantissima, che questo dibattito non è per usare la spesa per vincere le elezioni, ma ne parliamo dopo le elezioni, anche questo è apprezzabile, quindi sono due orizzonti temporali diversi. Devo dire però che qualcosa Padoan l'ha detto e l'ha rivelato, che conferma forse la bontà delle parole del progetto di Renzi, perché lui dice il debito si abbatte con la crescita. No? Allora prendiamo atto che se è vero che il debito si abbatte con la crescita, noi non abbiamo avuto crescita, perché non solo il debito non si è abbattuto, ma il debito è cresciuto, e qui torniamo all'idea che non possiamo pensare di mettere il paese e quindi l'Europa in sicurezza vantandoci del fatto che la crescita è cresciuta dallo 0,8 all'1, all'1,1, all'1,2, sono numeri che non possiamo chiamare numeri di crescita. La seconda cosa importante è l'ambiguità che va per tutte, una volta per tutte risolte, sulla la famosa parola incomprensibile chiamata spazio fiscale. Lui dice certo che dobbiamo fare la crescita con lo spazio fiscale che ci è dato. Ora, chi è che ce lo dà questo spazio fiscale? Secondo Padoan, lo spazio fiscale ci viene dato da quella chiamata la flessibilità, che significa un'austerità più lenta e più dolce, ma quello non è spazio fiscale, quello è sempre comunque minori risorse che dobbiamo tagliare al sistema, perché se lei dice io taglio il deficit non dal 3 al 2 ma dal 3 al 2,5, non è che ha creato spazio fiscale, l'ha ridotto ma l'ha ridotto di meno. Il punto vero è che lo spazio fiscale, finalmente Renzi lo mette sul tavolo, è enorme, è quello spazio fiscale che si genera da una proposta che invece di dire andiamo allo zero in 2 anni, perché questa è la proposta di Gentiloni con 40 miliardi praticamente di manovra, 2% di prodotto interno lordo, 35 miliardi di manovra, lui dice no, non si fa nessuna manovra, anzi si scende al 3. Stare al 3 invece che allo 0 vuol dire ogni anno avere 50 miliardi di spazio di manovra. Allora, questo sì che è spazio fiscale vero, e qui si innesta, ma siamo via da Padoan e via da Gentiloni, il dibattito con Calenda, che mi sembra su questo sia coerente con quanto dice Renzi, ma che ci facciamo di questi 50 miliardi? Io sono d'accordo con Calenda che è molto ma molto più impattante per il paese, per la produttività delle imprese, per il rilancio della domanda, soprattutto là dove c'è dolore, cioè nel settore delle costruzioni, facendo diventare le costruzioni molto più ecosostenibili di quanto non ci siano sinora, e rimettendo a posto tutta una serie di luoghi dove c'è la sofferenza, perché basta che va lì a Amatrice per capire. Detto questo, è difficile parlare di spendere di più in Europa senza aver un progetto di spending review seria, per cui l'Italia dice sì, io ho 50 miliardi per spenderli, ma devo spenderli bene, e questo purtroppo manca dal discorso di Renzi, come manca dal discorso di Calenda. Quindi il trittico è creare spazio fiscale di lungo periodo per farci investimenti pubblici e ricreare l'ottimismo, avendo dimostrato all'Europa che so finalmente spendere bene, cosa che né Padoan né tutti i ministri che l'hanno preceduto, né Renzi né tutti i primi ministri che l'hanno preceduto sono riusciti a fare. È un'equazione complessa, ma c'è una grande novità, c'è la novità di un progetto serio di abbattimento del fiscal compact che sta e ha congelato le aspettative e l'ottimismo degli imprenditori che non investono più, perché io sarei un pazzo a investire in un paese dove mi dicono nei prossimi 2 anni ti becchi 40 miliardi in più di maggiori tasse e minori investimenti pubblici. Allora, vale la pena ricordare che cos'è il Fiscal Compact. È un accordo europeo che prevede un insieme di vincoli per arrivare al pareggio di bilancio, cioè deficit su PIL pari a zero. Qualcuno dice 40 miliardi l'anno, l'accordo è più morbido in realtà, che fa riferimento al rapporto e non al debito in valore assoluto, cioè la percentuale, e prende in considerazione il PIL nominale. Comunque è indubbio che il fiscal compact, cioè l'arrivare allo zero nel deficit, lasciamo stare quello che ha promesso poi Gentiloni, è un elemento che frena la crescita, perché un conto è Maastricht, che ha sempre detto tu non puoi superare il 3% di rapporto tra quello che è il tuo deficit, tra quanto spendi in più rispetto a quanto incassi e il tuo PIL complessivo, perché sennò vuol dire che tu inizi ad andare in una curva che poi, da cui non rientri più. Altra cosa è diventare più fare alla tedesca, che non spendono un euro, non investono, continuano ad avere un export troppo alto rispetto alle importazioni, uno squilibrio del bilancio commerciale, perché l'obiettivo è il deficit pari a zero. Mi sembra, Piga, che però lei sia d'accordo sulla sospensione del fiscal compact e lei dica: attenzione, però, per essere credibili, con una mano ci teniamo più soldi invece che ridurre il deficit, però con l'altra ne spendiamo di meno sugli sprechi, spending review, privatizziamo e andiamo sui fattori produttivi. Perché sa qual è il mio timore? È che sotto campagna elettorale poi questi soldi li usiamo per, appunto, dare quello che serve all'elettorato, 80 euro, un po' di, e non per un investimento massiccio sui fattori produttivi, IRAP, IRPEF per i neoassunti, quindi far ripartire l'occupazione. In un minuto, Piga. È tanto più apprezzabile che lui ha chiarito che questo è un programma di legislatura per la prossima legislatura, è un programma a 5 anni ed è importante, perché se tu dici agli imprenditori: guarda, per un anno ti faccio il regalino del deficit del 3%, ma poi torno subito allo zero, quelli manco col diavolo che si mettono a investire di più. Tra l'altro lo spazio fiscale è ancora più grande di 50 miliardi, perché se tu fai la spending review e ti certo, becchi 20-30 miliardi, ce n'hai 80 di miliardi, ma lei si rende conto che riesce a fare con 80 miliardi di spazio fiscale per questo paese e per l'Europa, perché l'Europa non riparte? E qui io credo che ci sia la questione chiave, che probabilmente Renzi si sta muovendo in questo modo perché ha dei segnali dalla Germania che dopo le elezioni ci sarà un cambiamento, e possibilmente un cambiamento che porti tutta l'Europa unita ad avanzare e fare da supplente agli Stati Uniti, e quindi Renzi ha capito il momento. Professor Piga, torneremo, lei tra l'altro oggi deve anticipato questo suo taglio su Sole 24 Ore, il fiscal compact va rivisto. Una cosa dico: uno può stare simpatico Renzi o no, però coerentemente è da anni che diciamo che questo fiscal compact strangola ogni possibilità di ripresa. Il punto mi sembra come usiamo i soldi che risparmiamo, non improvvisamente perché ti sta sulle balle Renzi dire a torto anche sul fiscal compact. Detto ciò, grazie al professor Gustavo Piga, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.